Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, vedo che già alcuni di voi scrivono al 349-238-6666 sulla decisione del governo, che sta facendo molto discutere, di recuperare i soldi per il fondo dello spettacolo, il fondo di cui molto abbiamo parlato, il fondo FUS, attraverso l'aumento, insomma, del costo della benzina, attraverso le accise sulla benzina. Lo so, è una decisione che lascia perplessi i benzinai in primo luogo e poi anche gli automobilisti. Il rincaro sarà nell'ordine di 1-2 centesimi al litro. Diciamo che con un petrolio che viaggia stabilmente a $100 al barile, noi avevamo invocato in qualche modo politiche anticicliche, come si chiamano in gergo, cioè una riduzione dell'IVA, perché tanto il governo e lo Stato guadagna lo stesso. E quindi se l'IVA tu la abbassi quando il petrolio è molto alto hai un effetto anticiclico pur mantenendo il gettito invariato. È arrivata un'indicazione diametralmente opposta: non solo non c'è un abbassamento dell'IVA, ma c'è anche un aumento delle accise, e quindi dopo il Belice, la crisi di Suez e il terremoto di Friuli, il terremoto di Irpinia, la missione in Libano, la missione in Bosnia, andiamo indietro col tempo, l'alluvione di Firenze, il disastro di Vajont e la guerra in Abissinia. Adesso abbiamo anche 1-2 centesimi di accise sulla benzina per il fondo allo spettacolo. È stato levato infatti l'euro sui biglietti del cinema. Secondo, come giudizio puramente personale, forse aveva più senso l'euro sui biglietti del cinema che 1-2 centesimi sulla benzina, e introdotto appunto questa accisa. Ne parleremo subito in apertura. Il governo oggi ha deciso anche un'altra cosa importante, e cioè è passato in Consiglio dei Ministri il decreto salva Parmalat, lo chiamano in gergo. In realtà è il decreto che prende spunto da quella che è una legge francese, ossia che serve un'autorizzazione preventiva del governo quando si lancia un'OPA. Faccio notare che Lactalis non ha lanciato nessuna OPA su Parmalat, ha solo comprato il 29%. Però prima di lanciare un'offerta pubblica su aziende di settori strategici, difesa, telecomunicazioni, energia e agroalimentare, occorre un'autorizzazione preventiva del governo e poi anche il rafforzamento del potere della Consob. C'è anche la possibilità per il Consiglio di amministrazione, oggetto di scalata, prorogare di 2 mesi la convocazione di assemblee per l'approvazione dei bilanci. Vale anche per le assemblee già convocate, il che potrebbe voler dire che Parmalat a questo punto potrebbe rinviare l'assemblea che è convocata per il prossimo 12, 13 e 14 aprile, potrebbe farla slittare fino al 30 giugno con questo decreto. Vedremo se avrà l'effetto di moral dissuasion, ossia di far venire meno l'interesse di Lactalis per il controllo di Parmalat. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece ci occuperemo del decreto sul fondo unico per lo spettacolo e soprattutto anche di questa norma sulle accise. Poi la finanziaria britannica. Perché ci interessa la finanziaria che è stata varata oggi in Gran Bretagna? Perché la finanziaria presentata dal ministro dell'economia, che si chiama in Gran Bretagna cancelliere dello scacchiere, Osborne, ha un punto chiave, ossia porta la tassazione sulle aziende britanniche al livello più basso nei G7, al 23%. E anche qui so che qualche ascoltatore imprenditore, che sia artigiano, manifatturiero o nei servizi, imbufalito, perché dice come in Gran Bretagna si arriva al 23%, da noi non c'è nessuna riduzione della pressione fiscale. Temi di mercato invece riguardano la borsa oggi, che è leggermente positiva, più 0,22%, mentre Francoforte perde lo 0,20%, Parigi lo 0,1%, Londra guadagna lo 0,1, l'America perde lo 0,1. Oggi i titoli che vanno peggio si chiamano fondiere assai, di questo parleremo dopo che ieri in serata è arrivato l'accordo con Unicredito, Fonderasai meno 4%, Milano Assicurazione meno 5,85%, male oggi anche Edison meno 3,22%, bene in assoluto Mondo TV più 12% e Centrale Latte di Torino più 8,24%. Tra i titoli maggiori invece, quindi S&P, MIB, Buzzi Unicem più 3,5%, Campari più 2,2%, Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 2%, Fiat normale auto più 1,80%, Unicredito più 1,60%, Mediaset più 1,5%, come Tod's, Snam Rete Gas più 1,20%, come Pirelli. Chi perde? Fondiere Assai, l'abbiamo detto, il 3,80%, Ubibanca meno 1,60%, Mediobanca perde 1,5%, Enel Green Power meno 1,20%, Popolare di Milano meno 1%, Lottomatica meno 0,80%, Azimut meno 0,80%, come Intesa San Paolo e Ansaldo STS. Lo 0,70 lo perde il Banco Popolare. Moratorio di un anno sul nucleare deciso oggi dal Consiglio dei Ministri, nel giorno in cui, come i nostri GR vi hanno appena raccontato, Angela Merkel dalla Germania dice attenzione, qui l'ipotesi è di uscire proprio dal nucleare. Allora, 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, oltre alle notizie che vi ho appena raccontato, c'è un oro che sale sopra i 1440 dollari all'oncia, dopo che vi è stato in America un calo delle vendite nelle case esistenti, non nelle case nuove, e l'argento avanza anch'esso ai massimi dal 1980, 36,80 dollari l'oncia. Petrolio in leggero rialzo a New York, 105,7 dollari al barile. Secondo il Centro Studi Confindustria, il petrolio che viaggia a 100 dollari porterà un punto di PIL in meno nel biennio. Addirittura l'Italia è tra i paesi più penalizzati l'anno prossimo, soprattutto. Quasi un punto percentuale di minor crescita tra 2011 e 2012. Se consideriamo che noi dovremmo crescere di un punto nel 2011, di un punto nel 2012, significa quasi la metà della nostra crescita che potrebbe essere erosa dall'effetto caro petrolio. Ancora un attimo di pazienza ancora sulla benzina, adesso vi arriviamo. Le altre borse, fate bene a far notare che Tokyo è chiuso di nuovo in calo, ma soprattutto oggi ha riaperto la borsa di El Cairo, che insomma è rimasta chiusa per due mesi, un record storico, anzi 55 giorni di chiusura. Ha riaperto male, ha perso quasi il 9%, l'8,90%. Ed è schizzato, qui siamo all'Irlanda, oltre il 10% il rendimento dei titoli di Stato dei BTP decennali irlandesi. Più alto è il rendimento di un titolo di Stato, più inaffidabile è considerato quello Stato. Lo ripetiamo ogni volta, ma per far capire a tutti, un po' come avviene nel settore privato, se tu chiedi un prestito, se sei considerato poco solvibile, te lo fanno pagare molto molto caro. Ebbene, l'Irlanda ha un rendimento che è sopra il 10% per la prima volta da quando esiste l'euro, e la differenza tra quanto rende un BTP a 10 anni irlandese e l'equivalente in Germania è del 6,8%, 680 punti base. Perché va male Fondiere Assai? Beh, anche perché oggi i conti pubblicati sono obiettivamente pesanti. La perdita del gruppo di Salvatore Ligresti è di 928 milioni di euro, quasi un miliardo di euro, dopo che già nel 2009 il bilancio si era chiuso con un rosso di 391 milioni di euro. E poi gli aumenti di capitale previsti sia per Fondiere Assai che per Milano Assicurazioni: 450 milioni per Fondiere Assai, 350 milioni per Milano Assicurazioni. Unicredito acquisterà il 6,6% del capitale di Fondiere Assai. E poi Salvatore Ligresti, che ieri sera si è dimesso da consigliere nel consiglio di amministrazione di Unicredito. Unicredito, oggi ho diffuso i dati, l'utile 2010 cala 1 miliardo e 300 milioni, migliore comunque delle stime, In Italia però il gruppo ha i due terzi dei prestiti incagliati, quelli difficilmente esigibili, insomma. Praticamente su 67,4 miliardi di prestiti incagliati, 44 sono in Italia, 9,5 in Germania e 6 nei paesi, cioè escluso il Kazakistan. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo con il primo tema. Vedo tanti messaggi. Un po' di pazienza, adesso vi arriviamo. Eh sì, parliamo di benzina. Parliamo di benzina, per forza. Eh sì, uniamo Rino Gaetano con la famosa canzone degli anni inizio anni 80, fine anni 70, durante lo shock petrolifero. Rino Gaetano, quindi mondo dello spettacolo, con la benzina. Mai più di oggi due temi si tengono. Uno può pensare che il conduttore di questo programma sia completamente ubriaco, non è così in realtà. Per trovare i soldi per il fondo unico dello spettacolo, cioè 150 milioni, 149 milioni, con tra l'altro tax credit stabile e permanente, il fondo torna quindi ai livelli dell'anno scorso con 428 milioni complessivi. Il governo ha abolito l'aumento di un euro sui biglietti del cinema e finanziato stabilmente con la tax credit con risorse che derivano dalle accise sulla benzina. Ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta: un sacrificio di 1-2 centesimi che tutti gli italiani saranno lieti di poter fare. Ho dimenticato nello spettacolo che il tax credit per il cinema era stato finanziato nel decreto mille proroghe con l'aumento di un euro sul biglietto di ingresso al cinema, cosa che aveva giustamente preoccupato gli esercenti cinematografici. Abbiamo con il decreto abolito l'euro e finanziato stabilmente il tax credit. Le risorse per queste vengono, come per altri interventi, da un modestissimo aumento delle accise sulla benzina, che non riguardano soltanto lo spettacolo, ma nel decreto mille proroghe c'erano una serie di interventi che venivano finanziati attraverso questo aumento. Una parte di quell'aumento, che adesso è modestissimo, si parla di pochi 1-2 centesimi, viene dirottato sul mondo della cultura. E io credo che tutti gli italiani saranno lieti di poter fare questo piccolissimo, minimo sacrificio, che non è destinato ad incidere sul portafoglio di nessuno in maniera significativa, per risolvere invece uno di quei problemi che fanno non solo la storia e la tradizione, ma l'identità del nostro paese, che lo fanno ammirato nel mondo. Allora, così Gianni Letta. Devo dire una cosa, visto che stiamo ricevendo decine di messaggi. Allora, 1-2 centesimi non sono la fine del mondo. Prima però di essere travolto dagli insulti, voglio anche precisare che 1-2 centesimi sulla benzina sono particolarmente in questo momento visti male, perché abbiamo una benzina che ha record, anche se il petrolio non è a record, quindi già ci si mettono i petrolieri. Non voglio tornare su questa polemica, ma ripeto, dai nostri calcoli, per quello che è il livello dell'euro e quello che è il livello del petrolio, c'è un petrolio che in euro costa almeno 10 euro in meno rispetto al picco del 2008, e già questo non si spiega. Se poi ci aggiungiamo anche 1-2 centesimi, invece che avere politiche appunto anticicliche, sappiamo che la benzina poi significa inflazione importata, perché i trasporti dei generi alimentari, dei manufatti, di tutto avviene via, quasi sempre via camion. insomma, è forse più politicamente che economicamente sgradevole come mossa, senza mettere però contro, lo dico chi scrive, il mondo del teatro, della cultura, contro il mondo della benzina, insomma, non metterei assieme, diciamo, l'attore contro il guidatore. Forse si poteva tenere l'euro sul cinema, non so, dovessi scegliere tra pagare di più un pieno o pagare un po' di più il biglietto del cinema, forse sceglierei la seconda, visto che in quel caso poi andava e restava nel mondo dello spettacolo. Allora, invece vedo che altri di voi scrivono perché però non tagliano altri costi. Sì, qui la polemica è molto, molto vecchia. Oggi c'è uno studio della Confesercenti che calcola quanto risparmieremmo se non vi fossero in Italia le province. €7 miliardi all'anno sarebbe risparmio, che vuol dire €300 a famiglia all'anno. Ora, io non mi illudo che possano essere tagliate le province, però da qualche parte bisogna iniziare anche sui costi della politica, lo dico senza nessun populismo, ma insomma €24,7 miliardi di costi all'anno per la politica, con 2 milioni di persone che ci lavorano in maniera diretta e indiretta, dati della UIL, non diciamo di Fidel Castro, beh, allora forse qualche taglietto su questi 24 miliardi per trovare 150 milioni, forse, ipotizzo, si potesse fare. E poi veniamo al rimpasto di governo, perché qui lo affronteremo nella seconda ora del programma. Anche qui qualcosa è cambiato, già ve l'hanno raccontato i nostri GR, in attesa però del via libera del Presidente della Repubblica. Eh sì, perché il Presidente della Repubblica ha espresso riserve sulla nomina di Romano all'agricoltura, Francesco Saverio Romano. Sono ministeri di cui questo programma si occupa frequentemente: l'agricoltura, lo sviluppo economico, l'economia e finanze. Il Presidente della Repubblica ha ritenuto necessario assumere informazioni sullo stato del procedimento a carico di Francesco Saverio Romano per gravi imputazioni. Questo si legge in una nota del Quirinale, essendo risultato che il giudice delle indagini preliminari non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Palermo e che sono previste sue decisioni nelle prossime settimane. Il Capo dello Stato ha espresso riserve sull'ipotesi di nomina dal punto di vista dell'opportunità politico-istituzionale. Francesco Saverio Romano si è detto dispiaciuto per la nota del Quirinale. Prima di tutto però, di cosa sta parlando il Quirinale? C'è un'inchiesta per concorso in associazione mafiosa e un'altra per concorso in corruzione, con l'aggravante di avere favorito Cosa Nostra. Questi sono i procedimenti penali attualmente aperti a carico del neo ministro, se il Presidente della Repubblica lo firmerà, neo ministro dell'Agricoltura Saverio Romano. Il primo procedimento è un'inchiesta che ha preso le mosse nel 99, archiviata nel 2005 e riaperta nello stesso anno a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Campanello, che ha definito Romano persona a disposizione del boss di Villabate. Il PM ha chiesto l'archiviazione, poi però rigettata dal giudice delle indagini preliminari. La seconda inchiesta, che vede coinvolto Romano, è legata a una presunta tangente pagata dalla famiglia Ciancimino per ottenere favori negli appalti a vantaggio della Gas SPA, Gasdotti Azienda Siciliana, società riconducibile all'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, che ricordo è stato condannato per mafia. Ad accusare Romano di aver intascato denaro vi sarebbero alcune intercettazioni fatte a carico di Gianni Lapis, che è ritenuto il socio occulto e amministratore del tesoro di Don Vito Ciancimino, a cui si aggiungono le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il figlio, che sostiene di aver dato a Romano €50.000. Staremo a vedere, ne parliamo nella seconda ora del programma. Sentiamo però, perché è giusto che sia così, anche Saverio Romano, che si dice dispiaciuto per la nota inesatta del Quirinale. Ho letto questa nota e sono veramente dispiaciuto, intanto perché a mio avviso non riflette il pensiero del Capo dello Stato, Perché in quella nota l'ufficio, come si chiama, stampa, avrà fatto, come dire, degli errori, non so quanto voluti. Mi dispiace veramente, perché io non sono mai stato imputato, non ho mai avuto gravi imputazioni. Siccome in quella nota c'è scritto perché c'è un procedimento, io non ho procedimenti, non ho gravi imputazioni e non sono mai stato imputato. Nella nostra legislazione c'è il soggetto che può essere indagato. Quando il PM finisce le indagini e chiede l'archiviazione, non è più nemmeno indagato. Quindi io non sono nemmeno indagato. Imputato sarebbe uno che potrebbe essere rinviato a giudizio, quindi durante un processo. Quindi le spiego da avvocato cosa accade. Lei viene indagata, un anno, due anni, tre anni, non ha importanza, a me è toccato 8 anni, capita. Quando interverremo nella legislazione, immagino, non per me che non ho più questo problema, per tanti cittadini che possono avere indagini lunghe, no? Lei è indagata, scadono le indagini, il suo PM, che l'ha indagata, chiede l'archiviazione, quindi lei non è più indagata, perché il giudice per l'indagine preliminare non fa un'altra indagine, fa un controllo sull'attività del PM, ci siamo fino a questo punto, quindi io non sono nemmeno indagato. Figuriamoci se è imputato, allora forse non riesco a spiegarmi. Il GIP ha una funzione che è quella di controllo di legittimità dell'attività del pubblico ministero. Gli vogliamo togliere questo ruolo? Spero di no. Io non so, solo sono fiducioso, ma sono assai contento che il GIP eserciti questa attività di controllo. E lo dico perché, siccome sono stato indagato per 8 anni, che è un tempo abnorme, e non vi ho visto scrivere di scandalo per questa vicenda, e mi dispiace, perché dovreste anche voi, da questo punto di vista, avere, come dire, lanciare una riflessione. Ma è possibile che un uomo politico in Italia possa essere tenuto indagato per così lungo tempo, quando la legge non lo prevede? Ma chiusa parentesi, non è questo il tema. Io oggi parlo di questa cosa e non ne parlo più. Lei mi ha fatto una domanda in ordine al comunicato del Quirinale e io ho detto sono dispiaciuto, perché l'incontro col Presidente della Repubblica è stato cordialissimo, e sono dispiaciuto perché l'ufficio stampa, a mio avviso, del Quirinale ha scritto una nota che non è nemmeno nel pensiero del Capo dello Stato, perché tra l'altro non risponde ai fatti. Io non sono imputato, non ho procedimenti a carico, e quindi, poiché il GIP deve sciogliere un nodo in ordine all'attività del PM e non alla mia indagine, non capisco per quale ragione io debba temere qualcosa. Così, ed è giusto sentire anche la difesa di Romano su questo. Faccio notare che non c'è solo l'inchiesta del 99, ma anche quella delle dichiarazioni di Ciancimino e delle intercettazioni di Gianni Lapis. Una precisazione: adesso io non penso che se il neo ministro vuole avere vita facile gli convenga, come consiglio da chi si occupa di comunicazione, dire che l'ufficio stampa del Quirinale non ha scritto quello che pensa il Presidente della Repubblica. Dai, Romano, saprà l'ufficio stampa del Quirinale quello che pensa il Presidente della Repubblica, non certo Romano sarà l'interprete del pensiero del Presidente della Repubblica. Comunque, la nostra Elisabetta Fiorito poi l'ha raggiunto di nuovo, il neo ministro dell'agricoltura, appunto, vedremo come andrà a finire la cosa, il quale ha negato che la sua nomina sia frutto di contrattazioni con il Presidente del Consiglio. Io ricordo che Romano fa parte del gruppo dei deputati cosiddetti responsabili, quelli che sono, pur appartenendo a diverse formazioni politiche, hanno deciso di fondare un gruppo autonomo per appoggiare il governo Berlusconi, già lo ricorderete quando vi fu a dicembre la prima votazione di fiducia. E Romano dice no, non è frutto di trattativa con il Presidente del Consiglio. Il gruppo parlamentare dei responsabili ha sempre dimostrato saggezza, e lo ha dimostrato proprio perché la ragione sociale della sua iniziativa politica, punto. Senta, ma a chi l'accusava di non essere... Lei diceva non sono a caccia di poltrone, però poi oggi la poltrona l'ha ottenuta. No, io non sono mai stato a caccia di poltrone. La nostra è stata una operazione politica che ha avuto un inizio e che oggi non ha un epilogo. Stiamo continuando per adesso affrontare la fase 2 della legislatura, che è quella del rilancio e dello sviluppo, perché noi vogliamo arrivare al 2013. Quindi lei aderisce a questa maggioranza e questo fatto che è stato fatto ministro non è stato un po' una contrattazione con Berlusconi come i suoi avversari l'accusano? Non c'è stata nessuna contrattazione, se è come la intende lei. Se invece lei si riferisce al fatto che per formare una maggioranza ci vogliono degli uomini e che questi uomini, oltre a discutere del programma, poi abbiano anche impegni di governo, beh, nei ragionamenti che abbiamo fatto c'era anche questo. Cioè, Berlusconi non è che quando lei ha fatto il PID, ha fatto il gruppo responsabile, le ha promesso una poltrona da ministro? Assolutamente no. Quando io ho fatto l'operazione di secessione dell'UDC era lontana ogni ipotesi che questo governo durasse. Voglio ricordare a voi che già festeggiavano per il governo del ribaltone il 14 dicembre e purtroppo per loro non è accaduto. Alcuni di voi scrivono, ma magari perché la Medusa distribuzione appartiene a Berlusconi, non lo so, obiettivamente... Non è questo il tema è che nel momento in cui il petrolio è a $105 forse le accise sono particolarmente sgradite, ammesso che possano essere mai gradite. Comunque, la borsa. Allora, la borsa per quello che riguarda Milano è uno 0,66% di rialzo, Parigi più 0,54%, Francoforte più 0,35%, Londra anch'essa mezzo punto percentuale, l'America più 0,20% di rialzo e questa mattina Tokyo meno 1,6%. Euro su dollaro quota 1,41,20, i titoli, beh, partiamo dal gruppo Fondiere SAI dopo che ieri in serata è arrivato l'ok di Unicredito a entrare dentro il gruppo Fondiere SAI. Tra l'altro su questo ricordo che a Unicredito andranno 140 milioni di euro, a Credit Suisse 360 milioni di euro, queste le quote di ripartizione tra le due banche dell'eventuale inoptato, ossia chi non, se una parte dell'aumento di capitale di Fondiere SAI e di Milano Assicurazione dovesse andare inoptato, cioè non sottoscritto. L'aumento di capitale vuol dire che si chiede agli azionisti di mettere nuovi soldi nel gruppo, rispettivamente sono 450 milioni per Fondiere SAI e 350 milioni per Milano Assicurazioni. Unicredito acquisterà il 6,6% di Fondiere SAI, Ligresti, che è il proprietario attraverso la Premafin sia di Fondiere SAI che di Milano Assicurazioni, è uscito dal consiglio di amministrazione di Unicredito dove sedeva e oggi i dati di Fondiere SAI non sono sicuramente belli. Ha chiuso il 2010 con una perdita di quasi 1 miliardo 930 milioni contro la perdita di 390 milioni del 2009. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, qual è il ragionamento che fa il mercato sul titolo Fondiere SAI? Perché ho visto che ha premiato invece Unicredito, che anch'essa oggi ha diffuso i conti, Unicredito più 2,1%, cito anche i conti di Unicredito e poi mi taccio, l'utile è calato, ma è andato meglio delle attese, 1 miliardo e 300 milioni, 44 miliardi di prestiti incagliati in Italia, che sono i due terzi del totale, 9 miliardi e mezzo in Germania e 6 miliardi negli altri paesi. Guido. Allora, per quello che riguarda Fonsai, il ragionamento è che si spegne un po' l'appeal speculativo sul titolo. Diciamo che i risultati fortemente negativi che hai già ricordato tu, sia per Fonsai sia quelli comunicati ieri da Milano Assicurazioni, in qualche modo erano attesi. Quello che il mercato ha guardato oggi è il fatto che la vicenda in qualche modo si chiude la partita per il salvataggio del gruppo Ligresti e questo fa venir meno, diciamo, l'appeal speculativo. In più si tratta di due aumenti di capitale molto consistenti che porteranno a una diluizione molto forte anche degli attuali azionisti e come sempre queste operazioni vengono in qualche modo penalizzate in borsa, quindi Fonsai ha ceduto il 3,54%, Milano Assicurazioni addirittura il 6,04%, mentre se guardiamo Premafin, che è la holding di controllo delle due società, ha ceduto tra virgolette solo lo 0,49% proprio perché non subirà aumenti di capitale. Ancora per quello che riguarda i titoli, non vedo molti messaggi ancora su Romano e sulle accise, adesso vi arriviamo, lasciateci fare i mercati ancora e poi arriviamo al resto. Oltre a Unicredito e Fondiere SAI, oggi in evidenza Buzzi Unicem ha diffuso anch'essa i conti, anzi scusate, mi ha diffuso i conti oggi la tedesca Hochtief e tutto il settore è andato bene, quasi il 4% di rialzo per Buzzi Unicem. Conti Fortiev, che hanno mostrato un utile netto in progresso del 50%, oggi hanno fatto bene al titolo Buzzi Unice, ma ha chiuso in rialzo del 3,94%, anche Fortiev ovviamente è andata bene alla borsa di Francoforte, dove ha guadagnato quasi 2%, insomma una ritrovata attenzione per il settore delle costruzioni, che oggi si è concentrato su Buzzi Unice. Bene, invece, oltre Buzzi Unice, tutto il gruppo Fiat, Fiat Industrial e Fiat Auto, il 2,5% di rialzo. Sì, diciamo che non ci sono ragioni particolari, oggi si è mosso abbastanza bene il settore auto in Europa e Fiat ne ha approfittato guadagnando il 2,49%, sul finale anche Fiat Industrial si è rafforzata chiudendo con un guadagno del 2,51%. Ancora, ed è l'ultimo titolo che ho per te, oltre a quelli appunto già citati, Campari più 2,34%, ma qui c'è ancora, sono i conti di due giorni fa, Unicredit aumento più 2,16%, Tod's più 1,70%, Mediaset anch'essa diffuso i conti più 1,60%. Sì, per quello che riguarda Mediaset i titoli hanno guadagnato bene, anche perché ieri i risultati hanno mostrato un deciso rialzo dell'utile netto a 352,2 milioni e questo nonostante le svalutazioni relative a Endemol. Senza queste svalutazioni, quindi al netto delle voci straordinarie, l'utile sarebbe stato addirittura di 431,6 milioni, cresce anche la cedola a 0,35 euro per azione e questo è stato premiato al mercato, anche perché le prospettive rimangono buone per il gruppo. Allora, una cosa però la vorrei sapere, i bancari oggi sono deboli, sono stati deboli tutti, Pop Milano meno 0,70, Banco Popolare mezzo punto, Intesa San Paolo meno 0,30%, tranne Unicredito. Tensioni sul Portogallo, perché noi ci troviamo l'Irlanda come rendimenti dei BTP, ma dimmi. Sì, sono soprattutto le tensioni relative al Portogallo, perché proprio in queste ore, forse a minuti, si dovrebbe capire se il Portogallo ha ancora una maggioranza politica per portare avanti i suoi piani di austerity. Gli investitori oggi quindi sono stati abbastanza cauti, c'è un po' di tensione sul Portogallo e sui paesi periferici e le banche ne hanno risentito. Grazie Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi adesso respiriamo veramente, perché delle volte occuparsi d'Italia è una fatica, anche oggi soprattutto, e andiamo in Gran Bretagna, dove il governo ha annunciato una finanziaria rivoluzionaria per alcuni versi, perché porterà la tassazione britannica sulle imprese a livello più basso nel G7. Sì, vedo che alcuni scrivono nel frattempo sempre sulle accise alla benzina per pagare i soldi al Fondo Unico dello Spettacolo. Si potevano trovare questi 150 milioni in più accorpando il referendum con le elezioni, giusto, 300 milioni di spesa, facendo pagare le multe per le quote latte, giusto, non creando 20 sottosegretari, queste sono scelte del governo, però secondo me toccare la benzina in questo momento, ma... Torniamo dopo a Parma, tal decreto, la benzina, la Gran Bretagna. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Osborne, che è il Tremonti britannico, il cancelliere dello scacchiere, ha iniziato a presentare la manovra finanziaria 2011. Sentiamo questo passaggio intanto. Today's budget is about reforming the nation's economy. So that we have enduring growth and jobs in the future. La manovra punta a riformare l'economia del paese e assicurare crescita e posti di lavoro. Vogliamo fare il possibile per aiutare le famiglie contro il caro vita e il rialzo del costo del petrolio. Sappiamo bene quanto siano difficili oggi le condizioni economiche di molti. Ci siamo messi in cammino e dal soccorso siamo arrivati alla riforma, dalla riforma alla guarigione. E questo è stato possibile grazie anche alle difficili scelte che abbiamo intrapreso. Decisioni che hanno portato alla stabilizzazione economica e senza quest'ultima non ci può essere una crescita stabile, sostenibile e tantomeno non si possono creare nuovi posti di lavoro. Senza stabilità il governo deve tornare a rivolgersi ai cittadini e chiedere più tasse. Noi non dobbiamo fare questo oggi. Questa infatti non è una manovra che comporterà un aumento delle tasse. Si basa sui soldi, darà slancio alle imprese e supporterà l'export e gli investimenti. È un piano per creare, non per rimediare. A budget for making things, not for making things up. No, sorridevamo perché, Leonardo, tu non sai, ma la puntata oggi è molto giocata sull'aumento delle accise per pagare i fondi unici allo spettacolo. E invece Osborne, appunto il Tremonti britannico, dice: abbiamo ben presente il problema delle famiglie britanniche, dei costi del petrolio, e quindi per arginare faremo un po' diverso l'approccio. Comunque, come fa la Gran Bretagna a portare la tassazione sulle aziende al 23%, sia la più bassa nei G7? Ma questo è stato in certo senso la sorpresa del budget di Osborne, nel senso che lo ha puntato molto, da un lato, come dicevi giustamente, sul fronte degli aiuti alle famiglie, soprattutto sul taglio, sulle accise, sul carburante. Ma l'aspetto principale, a mio avviso, sono appunto gli interventi per le imprese. C'è questa decisione di raddoppiare quanto era previsto, cioè era già previsto un taglio dell'1% nella corporate tax, sarà un taglio del 2% subito e di un 1% all'anno nei prossimi anni, per arrivare nel 2015 ad avere il 23% di corporate tax, che sarebbe la più bassa del G7. Piccola domanda: dove li trova i soldi? Perché il governo britannico ha salvato le sue imprese bancarie, sta viaggiando con un deficit molto alto, è vero che non è dentro l'euro, quindi non ha il patto di Maastricht, però insomma da qualche parte dovrà tagliare o aumentare le entrate? Innanzitutto ha tagliato il tagliabile. Cioè, i dipendenti, sì, hai ragione. In questi mesi è stato sangue, sudore e lacrime, nel senso che il piano di taglio della spesa pubblica non ha precedenti neanche con gli anni della Thatcher, cioè bisogna ritornare proprio ai primi anni 70 per trovare misure di queste dimensioni, peraltro non ancora entrate interamente in vigore, per cui, come dire, il morso di questi provvedimenti si deve ancora sentire e si sentirà nei prossimi mesi. Le conseguenze politiche sono tutte da valutare da questo punto di vista. La grande scommessa è rilanciare, come dire, con grandi aiuti alle imprese, per cui se da un lato i tagli della spesa pubblica comporteranno tagli di posti di lavoro nel settore pubblico, tu dovresti poi controbilanciarli con occupazione nel settore privato, agevolato da queste misure fiscali, da un lato quelle che abbiamo detto, dall'altro quella sulla fiscalità per le imprese, le società controllate estere, che viene ridotta sensibilmente, i numeri sono ancora da definire, però ci sono già le dichiarazioni, come dire, di gioia di imprenditori celebri come Martin Sorrell di WPP, che aveva trasferito i quartieri generali della sua società a Dublino, indispettito appunto per la politica fiscale del governo precedente, che ha già detto che il governo va nella giusta direzione, lasciando intendere che è pronto a fare le valigie e tornare da Dublino a Londra. Allora, Leonardo Maisano, grazie, perché ci hai raccontato insomma come si fa anche una politica industriale, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, lo fa la Francia, lo fa la Gran Bretagna, che decide di tagliare la spesa pubblica anche con lacrime e sangue e di puntare da un lato sulle imprese britanniche, portando via via l'aliquota da qua al 2015 a livello più basso dei G7, e anche, sempre in tema di incentivi, ridurre le accise sulla benzina, aumentare un po' il potere d'acquisto dei cittadini britannici e poi incentivare gli investimenti degli stranieri, e non solo, con questa norma fiscale di facilitazione. Dall'altra parte, noi, lo dico senza polemica, però oggi abbiamo varato un aumento delle accise sulla benzina di 1-2 centesimi per il fondo sullo spettacolo. Adesso vi faccio arrabbiare ancora di più, perché è tornata la norma, leggo l'agenzia Siamo Voi, che aumenta il tetto massimo di consiglieri e assessori per i comuni con più di 1 milione di abitanti. Quindi era stata levata dal mille proroghe, lo ricorderete, adesso invece era fondamentale per la politica del paese, e quindi i consigli comunali di Roma e Milano, ma non solo, potranno aumentare i componenti dei loro consigli, che non saranno più 48 consiglieri e 12 assessori. Si ripristina il numero di 60 per i consigli comunali, di 15 componenti più il sindaco. E sono arrivati anche i primi calcoli di quanto costerà l'aggravio di 1-2 centesimi al litro di accise deciso oggi dal governo per reperire i soldi per il fondo unico sullo spettacolo, i 100 e 48 milioni che mancavano per la precisione e che portano così la dotazione complessiva del fondo, voglio essere preciso, a 400 milioni. Adesso ve la do con precisione. Dicevo, sono arrivati i primi calcoli. Perché lo dico? Perché i consumatori hanno stimato che l'aggravio sul pieno sarà di una spesa di circa 20 euro l'anno. Allora, su questo, sì, ecco, il Fondo Unico sullo Spettacolo torna a 428 milioni di euro, e invece 149 milioni sono quelli che verranno reperiti anche per la tax credit, più la tax credit da queste accise. Ora, obiettivamente, senza suscitare la vostra ira, 20 euro all'anno non sono un elemento, diciamo, devastante, in media. È più un problema di opportunità politica, di segnale politico. Nel momento in cui la benzina è ai massimi, il petrolio sopra i 100 dollari, si chiedeva un intervento anticiclico, cioè di abbassare l'IVA a parità di gettito incassato dallo Stato. Ecco, insomma, finanziare la cultura con la benzina ha un impatto anche politico, più che in questo caso strettamente economico, fermo restando che a nessuno fa piacere spendere 20 euro in più in media, che per alcuni saranno 40-50, per altri saranno 10. Questo il ragionamento. Volete sapere invece cosa è uscito anche dal Consiglio dei Ministri per quello che riguarda gli assessori? Sì, oggi è difficile raccontare la giornata, perché da un lato c'è, e adesso lo racconteremo, Romano, ministro dell'agricoltura, però il Quirinale è molto perplesso per le indagini che riguardano il neo ministro, l'indagine di Palermo. Dall'altro si passa ad aumentare le accise sulla benzina per il fondo, e si leva l'euro di aumento sul ticket sul biglietto per il cinema. E poi è passata la norma che era stata levata dal mille proroghe, che permette alle città con più di 1 milione di abitanti, e quindi Roma su tutte era molto richiesta dal sindaco Gianni Alemanno, di portare i consiglieri comunali, cioè ripristina il numero di 60 precedentemente in vigore come componenti dei consigli comunali, e 15 i componenti delle giunte, cioè adesso erano massimo 48 consiglieri comunali e massimo 12 assessori. Con questa norma, per le città con più di 1 milione di abitanti, si potranno avere 60 consiglieri comunali e 15 assessori più il sindaco. Non capisco l'esigenza e l'urgenza, però insomma, anche questa è una norma che così non va proprio verso la direzione dei tagli ai costi della politica, questo lo possiamo dire. 12 consiglieri in più costeranno qualcosa a Roma, a Milano, a Torino. Va bene, partiamo con il primo tema, che riguarda Parmalat, il casus belli, e ne parliamo da giorni. È arrivato il decreto legge che contiene misure a difesa delle imprese italiane contro le scalate straniere in settori strategicamente rilevanti. Eh sì, dal latte nasce tutto questo. Questa volta non parliamo di quote latte, ma di Parmalat, della scalata, anche se non vi è nessuna offerta pubblica d'acquisto, mi raccomando, da parte del colosso francese Lactalis, che si è comprato dalle quote dei fondi, più un po' se li è comprati per i fatti suoi, è arrivato fino al 29% di Parmalat. Si sta cercando di organizzare un'accordata italiana avrebbe come, diciamo così, pivot Banca Intesa, che al 2%, ancora però i nomi non si conoscono. Ferrero ha dato la sua disponibilità, non vedi. Granarolo ha detto sì, se fondiamo gli asset non per metterci soldi. Non c'è un'offerta pubblica di acquisto, questo va detto, c'è però una no da parte di Lactalis. Il governo però, col decreto di oggi, ha stabilito che occorre una realizzazione preventiva del governo se vi fossero offerte pubbliche di acquisto su aziende in settori strategici, difesa, telecomunicazione, energia, agroalimentare, e ha rafforzato anche i poteri della Consob. Viene prevista anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di prorogare di 2 mesi la convocazione di assemblee, quindi slitterà con ogni probabilità quella del 12-13 aprile per Parmalat, si potrà arrivare fino al 30 giugno. E insomma, questa norma molto richiesta. Siamo in collegamento con Dino Pesole, del Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera. Che terrà assieme la parte su Parmalat e anche la parte sul ministro dell'agricoltura Romano e sulle accise. Prima domanda, poi andiamo all'analisi dopo il traffico.